lasciarmi tu mi vuoi dimenticare. Non è possibile dividermi da te. Più non mi dire parole amare. Se te ne andrai, che mai sarà di me? Tu vuoi così ed obbedirti saprò. Io t'amo sì come nessuno ti amò. Riprendi pure il tuo cammino, non piangerò. E dalla legge del destino mi arrenderò. Tu vuoi così, tutto un passato scordare, ma forse un dì ti vedrò ritornare. Felice ti perdonerò e sul mio cuor ti stringerò per non lasciarti mai più, perché il mio amor sei solo tu. Cuor ti stringerò per non lasciarti mai più, perché il mio amore.